fino a che senti le gambe cedere. L'adrenalina scorrere, ed il tuo cuore battere. Scotti la tua vita e rivolta la perché, a trovare ancora molto da scoprire dentro te. Fai così. Tingerà ancora curva la tua schiena. Fai così. Muoviti ora curva la tua schiena. Scoprire